L'ira è quello stato d'animo violento, disordinato e spesso incontrollabile, che si manifesta con reazioni non dettate da carità. Tra le mancanze e le virtù ormai dimenticate dell'uomo, l'ira è certamente uno degli atteggiamenti più comuni e quotidiani. Nessuno è esente da questo peccato, neppure uomini e donne che potrebbero costituire il nostro modello di vita. Centinaia di volte la parola di Dio accenna all'ira, comandando all'uomo di controllarsi e di stare calmo. Eppure quando giunge il momento, ognuno di noi perde il controllo e manifesta in modo incontrollato azioni e parole che non vorrebbe né compiere né dire. Pensiamo al classico esempio di Mosè, in merito al quale abbiamo testimonianza che fosse il più mansueto o umile uomo della terra. Eppure, in un momento di debolezza, non si controllò e per questo gesto fu penalizzato a non entrare nella terra promessa. Abbiamo pure la testimonianza personale dell'apostolo Paolo nella sua prima lettera a Timoteo, espressa con queste parole: «Rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento, ma mi è stata fatta misericordia, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità». 1 Timoteo 1.1-2.13. È molto difficile tracciare in poche parole il proprio passato pieno di errore, e Paolo lo fa molto abilmente usando tre verbi: bestemmiatore, persecutore e violento. Paolo, l'apostolo dei gentili, l'uomo che più volte è stato disposto a morire per i fratelli, definisce il suo stato prima di essere stato toccato dalla grazia di Dio in termini di violento, e un violento è una persona in preda all'ira. Preso atto di questi due aspetti, chi è soggetto all'ira non si deve abbattere, perché ha ancora la possibilità di essere usato positivamente da Dio, come l'apostolo Paolo. E a chi è stato oggetto di un episodio increscioso causa l'ira, o lo sarà in futuro, non saranno tolti i meriti di un cammino giusto e santo davanti a Dio, come non è stato per Mosè. Perciò è saggio riflettere sull'ira almeno per due ragioni: per incoraggiare a non darvi sfogo e affinché chi ne è soggetto non spenga il desiderio di arrivare ad avere un atteggiamento mansueto. Se secondo la promessa di Gesù i mansueti erediteranno la terra, vale la pena impegnarsi ad avere il giusto atteggiamento verso la vita, per il premio promesso, ma anche per il nostro benessere. Benché la parola di Dio condanni costantemente l'ira, troviamo anche scritto che adirarsi è lecito. E dato che la scrittura non si contraddice, consideriamo i due aspetti. Nella lettera a Giacomo è scritto, virgolette, «Fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira». 1.19. E nella lettera agli Efesini, adiratevi e non peccate. 4.26. È evidente che la parola di Dio non condanna sempre l'ira, perché ordina di essere lenti o cauti nell'adirarsi e, qualora ci sia diri, prescrive di non peccare. Com'è possibile adirarsi e non peccare? Se l'ira fosse sempre un peccato, non avrebbe senso avvertire di non peccare quando si è adirati. In effetti l'ira in sé non è peccato, ma è la motivazione che rende l'ira illecita. Questo aspetto del peccato non è certamente una novità, perché anche le cose più giuste come la preghiera e l'elemosina possono diventare un peccato quando le motivazioni non sono sante. Perciò generalmente l'ira è un peccato, ma non diventa peccaminosa o sbagliata quando è motivata da concetti di giustizia, di equità, di sdegno verso il male, quando non si esprime causa l'ingiustizia, il sopruso, il malcostume, quando è a favore dei deboli, degli emarginati e indifesi. Se chi è un rimprovero da parte dell'Eterno Dio è proprio quello di non adirarsi quando è il momento. Così si è espresso tramite il profeta Isaia. Nessuno muove causa con giustizia. Nessuno la difende con verità. 59.4. Altre versioni rendono il verbo difendere con discutere o addirittura litigare. In definitiva, i traduttori vogliono rendere l'idea che per promuovere la giustizia e la verità, A volte occorre compiere una forte opposizione espressa anche con uno stato d'animo acceso. È anche vero però che pur essendo motivata da buoni propositi, l'ira può anche essere illecita. Perciò è molto saggio prendere sul serio l'ordine di Dio di essere lenti all'ira. Cioè, non occorre fare dell'ira una scusa per ottenere ciò che si vuole, perché, come sta scritto, l'ira dell'uomo non promuove meno o non compie meno la giustizia di Dio. Giacomo 1.20 è per questo che la scrittura loda chi controlla i propri stati d'animo. Proverbi 16.32 Chi è lento all'ira vale più di un forte guerriero, e chi domina il suo spirito vale più di chi espugna una città. Proverbi 14.29 Chi è lento all'ira ha molta prudenza, ma chi è facile all'ira mette in mostra la sua follia. Proverbi 15.18 L'uomo irascibile fomenta contese, ma chi è lento all'ira acquieta le liti. Dunque l'ideale sarebbe non adirarsi quasi mai, ma spesso, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Però alcuni accorgimenti possono aiutarci ad avere un giusto atteggiamento quando le cose non vanno per il loro verso o ci si trova sotto pressione. 7 consigli, questi si danno sempre volentieri, possono venirci in aiuto. 1. Accettare che Dio permetta la situazione negativa. Chi è cosciente che la sua vita è nelle mani di Dio e non delle circostanze o del fato, non può che accettare tutto ciò che succede come parte della volontà di Dio. Quando si parla della volontà di Dio, non si deve pensare che Dio voglia tutto ciò che succede come il male e il dolore, ma occorre ritenere che anche le ingiustizie e la sofferenza facciano parte dei piani di Dio. 2. Nei casi dove si è portati ad adirarsi, è bene intensificare la preghiera per le persone che provocano lo stato d'animo alterato. Chi ha provato e chi persevera in preghiera per le persone ingiuste ha sperimentato che la preghiera produce un frutto. Se non cambia la persona ingiusta, sicuramente cambia il nostro atteggiamento nei confronti del prossimo. Provare per credere. 3. Quando il nostro stato d'animo non è più controllabile, è bene anche parlare con qualcuno del quale si ha fiducia. Chi non è coinvolto nella situazione spesso ha un'obiettività che noi in quel momento non abbiamo o non possiamo avere. 4. Anche se si è adirati, a volte è opportuno andare dalla persona che ci ha provocato l'ira. In questo caso si deve scegliere il comportamento migliore, come è scritto, meglio una riprensione aperta che un amore nascosto. Proverbi 27.5 5. Quando si è adirati, o meglio, prima di adirarsi, è molto importante pensare che per quanto si siano ricevuti torti, questi non saranno mai come le nostre colpe nei confronti di Dio. Per giungere a questa convinzione, occorre innanzitutto aver ricevuto lo Spirito Santo mediante la nuova nascita. In seguito occorrono tanta onestà, obiettività, umiltà. È molto difficile adirarsi quando si pensa di avere maggior colpa. 6. Vedersi bisognosi di maggior perdono produce in noi la necessità di perdonare il prossimo. Quando si perdona qualcuno, l'ira non esiste e, se esiste, passa immediatamente. Anche in questo caso, occorre provare per credere. 7. Infine, un ultimo modo perché l'ira non subentri o affinché cessi è sfogarsi con mezzi leciti. I mezzi possono essere tanti. Uno è sfogarsi con un'attività sportiva o, se si vuole, prendere a pugni un materasso. Certi stati d'animo non sono facili da passare e contenerli a volte non è salutare. Ho presente una sposa la cui drammatica situazione familiare si protraeva da anni, la quale mi confidò che quando era in macchina da sola urlava a più non posso. Oggi la vedo molto serena e fiduciosa nonostante non si sia risolto nulla. L'ira e la rabbia sono passate semplicemente accettando la situazione da parte di Dio e oggi non si vede più una vittima, ma uno strumento per arricchire una situazione e delle persone che sono nel buio. Se chi ha posto fede in Cristo è una luce divina, per forza di cose deve esserlo dove ci sono delle tenebre. E dove ci sono tenebre ci sono ingiustizie e amarezze. La sorella in questione mette in evidenza che ci sono almeno tre tipi di persone che reagiscono in modo diverso di fronte alle circostanze negative. Ci sono quelli che hanno lo scatto facile. Ci sono quelli che si controllano magistralmente. E quelli che non si adirano mai anche quando sarebbe necessario esprimere in modo piuttosto sostenuto la verità. Difficile dire chi si comporta meglio. Anche perché solo Dio conosce a fondo i cuori e le pressioni delle circostanze. Ma, nel considerare l'ira dell'uomo, la cosa più saggia è prendere anche in esame l'ira di Dio. Perché mentre l'ira dell'uomo può compiere un bene o un danno limitato nel tempo, l'ira di Dio ha un effetto eterno. E, ovvio che l'ira di Dio è perfetta e esente da ogni limite umano, perciò essa va presa in seria considerazione. La Scrittura cita l'ira di Dio centinaia di volte. Prendiamo un solo esempio. Salmi 7.11. Dio è un giusto giudice, è un Dio che si adira ogni giorno contro i malfattori. In un Dio d'amore questo aspetto è molto difficile da assimilare, ma eppure è vero che ogni giorno Dio manifesta la sua santità e la sua giustizia, anche se questo non ci risulta evidente. Inoltre, meno per cancellare un aspetto romantico di Dio, ricordiamo che l'ira divina è tuttora sugli uomini. Infatti, così si è espresso l'Evangelista Giovanni. Giovanni 3.36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Per quanto mi riguarda, vorrei che la situazione dell'uomo fosse diversa, ma credere alla menzogna o ingannare se stessi non serve. La parola di Dio afferma che tutti gli uomini, religiosi e non, sono sotto l'ira di Dio. E solo una fede salvifica in Cristo può rimuovere tale situazione. Se l'ira dell'uomo è terribile, quella di Dio è fatale. Che l'ira dell'uomo ci porti a pensare all'ira di Dio e che l'ira di Dio ci spinga ad accettare il perdono offerto in Cristo Gesù. Credendo in Cristo, l'ira di Dio è rimossa e si ottiene la vita eterna. Non vi è conclusione più bella di questa. Ottobre 2007. Ellero,